però ho detto che arriva male anche, ho detto che è più basso del radio, solitamente era più forte. Sì, quello sì. Quando ti arrivo io li apporto Torres. Ma non è simile Eugenio. Perché? Non stai uscendo di radio. No, non esce, non esce. Quindi qualcosa ce la faccio, ho ragione io. Ergi, alza il mic, che c'è scritto un mic. Già lo so, ma come non sto scendendo di radio? Adesso sì. Adesso sei anche più forte di prima. Sì, ma non ho fatto niente. Non ho fatto niente, non ho toccato niente. Proprio il tasto. È possibile che abbia fatto il tasto, ma mai c'è uscito. Cos'è toccato? Niente, niente, il tasto. Sicuramente c'è uscito. Non sei uscito per un paio di volte, non sei uscito di radio. Ho capito, ma è il tasto che c'è l'ossido sicuramente, come non lo sto usando spesso, magari avrei messo ossido, come lo schiaccio magari non fa contatto. Allora adesso come si chiama più forte tutto, adesso sei tu. Evidentemente come sto schiacciando l'ossido sta andando via. Non so, però io non ho toccato niente. A te te ne sei accorto che sei più forte del radio? Non credo sia di essere spostato. Sì, ma è così, oggi. Tranquillo che io c'ho un riccio. Prima eri più basso del radio, adesso sei di nuovo tu. Sì, come al solito, come ti sento al solito. Sì, già, ma ti ripeto, sicuramente i tasti stanno facendo ossido. Capito, adesso mano a mano che sto schiacciando l'ossido sta andando via, stanno facendo bene il contatto, credo, perché non ho toccato niente. Metti un po' di spray per contatti, uno spray per contatti e se non ce l'hai te lo copri, se lo vedono da accusarlo. E praticamente quello lì il tuo di lusso. Sì, sì, li ho spruzzo un po', ce l'ho in garage già adesso via, domani. Perché io me lo ricordo che tu uscivi così come stai uscendo adesso, non uscivi così, da me mi arrivavi più basso delle altre volte, me lo ricordo meglio, adesso sì che sei tu. C'è qualcuno che ha parlato sopra di te, non ti ha sorpassato, però ti ha fatto molto fastidio, non ho capito niente. Ho detto che adesso sei tu, chi è che vuole entrare a fare? Comunque niente, dai. E adesso come lo sto usando si sta pulendo, dai. Probabilmente è quello come era fermo un po' di tempo che non lo usavi e l'aveva fatto del Garci, che si metteva a camminare frequenzimetro come non lo stavo usando e sparivano le ultime cifre. Una volta me l'ha fatto e poi come ho cominciato a usare non l'ha più fatto. Perché avrei detto così. Però io il CB lo accendo sempre. Il mio CB qua il schermo è sempre acceso. La mattina che vado al lavoro lo accendo e poi quando torno lo spengo. Così scalda bene. Però il microfono non lo uso. Ma non lo usi in uscita, capito? Quindi il microfono lo stai usando e probabilmente è quello che hai detto tu. Si è formato l'ossido dal microfono e si stava facendo quel difetto. Vabbè, lì fuori adesso stiamo andando bene, capite? Adesso ho preso che stiamo andando bene, ma non sembra anche la lancetta, dai. No, ma adesso si sente anche la potenza del microfono, capito? Prima non si sentiva basso. Ok, no, ma sì, mi ha accorgato come sale la lancetta, che prima non saliva così. E allora io, non è che dico cazzate, cioè, se no te l'avrei detto. Che a me che era... Ma sempre stai lavorando a caricare le morti alle napoli. Per forza, ancora. Ci ho messo così tanto a entrare. Ci sono 33 anni lì dentro. Ma lo lasci tu un posto per attaccare? No. C'è anche uno che si chiama Carletto per lavorare. E poi loro si dividono gli utili a fine anno, vero? Ai soci, Carletto è entrato da poco, ci sarà un paio di mesi. due o tre mesi. Già lo conosco già. Carlo è reparto da un'altra parte, sempre con noi, sempre in compagnia portuale, però lui è reparto oggi. Ci vediamo solamente negli spogliatoi. Ma Carlo è tu chi? Fratello di Luca? Sarà buona la volta. Sì. Non lo sapevo, è entrato da poco. Oh, a te, il fratello di chi è? Di Luca, di Luca Manicù. Davvero, ma il fratello di Luca, l'amico mio di Sassari. Adesso, non lo sapevo, adesso glielo dico, cazzo. Fra il capo. Perché io è il fratello di Luca, Carletto. Scusa, ti ha portato l'autore, spero il fratello di Luca. Non lo sapevo. Ma no, vai, quando lo trovo glielo dico. Grazie, Carlo, io conosco anche tua fratella. Non avevo bisciato, se avevo fatto qua. Sempre c'è il Carlo che dico io. Già è lui, Carletto, sì. Antonio sta dicendo di sì, quindi se lo dice Antonio vuol dire che è così. Lo sto dicendo io. Ti sembra ci ha fatto un po' del pupà, mi ha fatto un cazzo, ma cos'è questa cosa? Queste scariche che sono sentite? Non lo so. Ma le sentite tu? C'è qualcosa che parla portante ogni tanto. No, no, non sta uscendo. Sta uscendo pure in frequenza. Ma chi io? No, ma tu. Non sei tu. Mi è sembrato una persona, ma non oso dirlo, perché poi magari mi sbaglio. No, ma non è che magari lo sta facendo apposta, sta uscendo pure di frequenza la pari. Non si assomiglia a Luca, eh. Sento, Luca, l'amico mio di Sassari. Io a Porto Torres vado molto spesso, soprattutto ora che ho la macchina. Almeno una volta alla settimana scendo. Io ce l'ho anche ieri notte. Si va a far cosa? Senza il mio permesso. Tu sei come la buon'anima di cosa, come si chiamava, di Giampaolo Silvestro, che quando entravo mi ha dato la maglia e diceva, beh, mandi a casa, vieni a pagare il dazio. Grazie Giampaolo, due risate da un altro Giampaolo, già. Se stava morendo anche quando era all'ospedale, che mi ha convintato che aveva riconosciuto la migliore di chi su del faro, sono andati a conoscerla perché c'è una bella voce al baracchino, quando la rivista gli diceva mia ribelli come il tionino di curraccia, a casa del fatto cremata le risate. Non passa la Giampaolo, come la quando il canale 12 regnava, ma voi nel canale 12 non più dominato più nessuno. E prima c'era Tulipano, adesso lui è anche l'abbiamo attore, ce n'è Alfetta, poi Gambina, come si chiama, ma Satellite, non Satellite, quello che vuoi dire, Satellite mi pare si chiamava uno. C'era Tonino La Torre, c'era Giovanni Picassa, c'era Alfa Verde, e Vinera, c'era quella che abitava al campo, e Vinera non beh, c'era Giampaolo, c'era Coso, Carlo, Carlo Titano, c'era Bartolomeo, e Vinera non beh. Io già me li ricordo tutti, io ci modulavo sempre, me li ricordo tutti. Se c'è Gavina, mi chiamava sempre, ma eri già abitati un caffè. Per Angelo Asso, qui era un bel, addirittura noi avevamo la sede bella, la sede lì all'Arena Redda, la sede Cibino, ci siamo andato. Io alla sede dell'Arena Redda gli ho venduto baracchino, lineare, tutto gatto. Tutti quegli apparecchi che c'erano lì li aveva comprati. Adesso non mi ricordo come si chiama quello che è morto, quell'autista di camion che aveva affitti, ma con la F inizia, Fernando. Fernando Sciabola. Esatto, li aveva presi lui per la sede. tiravo 15 tutti io questi apparecchi. E viene a Vera, boh, eravamo una cinquantina di persone qua a fare un disco a baracchino, ce n'era un sacco, tanti. Allora non mi rammento tutti, però poi quando venivano in sede avevamo il biardino, era bella quella sede. Ma prima era l'attore aragonese, mi pare, no? Dopo, la Torre Aragonese si è trasformata quando la Torre Aragonese era la sede dei cosi, dei Cavalieri di Malta, non dei Radio CB. Ah, ecco, ho capito. E vabbè, comunque, tutti io mi ricordo, quello che c'era nel 128, veniva sempre a comprare da lui. Che lui chi era? Avevo il 128. Carlo Titano. C'aveva un Midland come baracchino, ma che ha perché sbirciato. E aveva quello, aveva il Galaxy, ne aveva parecchi, anche lui CB. C'era Piero Alga, non so se l'avete sentito Piero Alga, c'era Davide Skipper, c'era Marco Flipper, adesso mi stanno dando più mette piano piano. Sì, già me li ricordo tutti. Io mi ricordo Giacomina che lì è il marito di Giacomina. In disegni e avevamo orreggevo lampada, fuori le mani la pace che si occupava di me. Eravamo tanti, alla buia, ce n'erano tanti, ce n'erano tuttore Marshall, Beta 3, Leonardo Beta 3, la moglie. Ce ne erano parecchi. Allora il satellite era invaso, veniva in un bel, al satellite era tutto pieno, c'era Angelo Asso, c'era ce n'erano un 4 o 5 di antenne di satellite. Ma Angelo Asso non era il satellite, Angelo Asso era via e Vigne, praticamente sopra abitava di fronte al palazzo. Di fronte c'era la pizzeria alla mano, lui abitava lì, in quel palazzo alto rosso, e sotto c'era il negozio di scarpe. Sì, sì, era il padre di una commessa di Manuela, quello del negozio di scarpe. Sì, sì, ho capito, ma io mi ricordo che abitava prima a Satellite. No, Angelo, lì abitava la suocera. Ah, ecco, perché io per di volte, siccome uscivamo qualche volta insieme, siamo andati a prendere lì a Satellite. Qualche volta siamo usciti io, Giampaolo, lui, tutti quanti insieme. E magari a casa della suocera. E ce ne erano tanti. Nel canale luci molte volte facevi fatica a entrare dalla gente che c'era, ma a tutte le ore. Lo so, prima c'erano tutti i canali occupati, non ti mandavano entrare, se non c'avevi potenza non entravi nei canali, perché ti schiacciavano. Era così, era la legge del più forte prima. E anche Giampaolo abitato in via delle Vigne, al numero 12, me lo ricordo ancora. Più giù di casa dove abitavo io. Un po' più giù di casa dove abitavo io. Infatti, come non volevamo, eravamo praticamente attaccati. C'era Emiliano Caimano, Emiliano addirittura abitava a 50 metri da me e tutti e due avevamo l'antenna, Luca Poldo, cioè Tulipano, quello che è, abitava a 100 metri da me. Cazzo, sì, Tulipano, lui vabbè, adesso abita ai fronte Carabinieri. E lui abitava sempre lì, ha sempre abitato lì. Ah, ho capito. No, pensavo che abitassi via delle Vigne dove abitavate voi. Ma da casa sua già le Vigne sono 100 metri. 200 metri là. Sì, e lì ad aria qui è vicinissimo. Vabbè, e comunque erano altri tempi. Però se si tiene questa frequenza è bello, perché una chiacchierata ti rilassa, capito? Sei sempre su internet, mamma mia, questo internet, il telefono sempre acceso su internet, e canto, e faccio, e canto, sempre su internet. Già, ma molti ragazzi non sanno cosa significa questo baracchino, capito? Non sanno nemmeno l'esistenza, quindi oramai internet è il loro baracchino, diciamo. Allora c'era un periodo che qua c'era un CB che voleva organizzare una cosa in Piazzale Segni, voleva mettere delle bancarelle con tutti i baracchini, fare una stazione per far vedere come funzionava i ragazzi d'oggi e per attirarli a prendersi il baracchino e ampliare la frequenza. Poi è andato tutto a monte perché quello non ci stava, la storia se ne sono fregati un mega, capito? Perché se no era una bella idea quella, per far conoscere la frequenza ai ragazzi e praticamente mettere anche baracchini espulsi e cose, chi aveva il baracchino da esporre poi magari se lo tornavano, però per far vedere il funzionamento eccetera, e magari attirava i ragazzi, cioè, vedendoli funzionare, capito? Ma i ragazzi oggi non mai più guarano a tale, meglio sono stato con i cotti col cellulare in mano, a stare seduti su una trottoia e modulare così non ce li vedo, capito? Quando magari anche a lavoro con i ragazzi nuovi che sono entrati parli di baracchini, queste cose, perché con me ci parlano bene, parla che io non sono grandissimo, quindi le dico, il baracchino è una buona cosa, per esempio il VHF a lavoro. Non lo chiamano VHF, lo chiamano qualcosa portatile, non so neanche come si chiama, capita? Non danno il valore che hanno queste cose, eppure con i baracchini abbiamo salvato molte persone, abbiamo fatto servizio antincendio, abbiamo fatto un sacco di roba, anche la cavalcata prima si faceva, i servizi della cavalcata, insomma un po' tutto, perché c'era il gruppo Radio CB che faceva queste cose. Sì, anche la festa grande, me lo ricordo. Vabbè, ma sono cambiati i tempi, non c'è niente da fare. L'unica è sperare che si avvicinino al mondo dell'elettronica e vedere un po', magari scoprire anche il baracchino. E qualcuno che si avvicini, perché intanto va a sparire, l'apparecchio va a sparire, non c'è niente da fare. Per lo meno qua in Sardegna, perché fuori il CB funziona. Perché io parlo con i camionisti, qua in Sardegna siamo pochi, sono stati pochi i camionisti che hanno il CB. Però ci parlo, molte volte ci parlo e mi dicono, ma noi fuori lo usiamo tantissimo, si usa tanto fuori ancora il baracchino, si usa tantissimo, e sono anche qua in Sardegna che non ho più capito. Sì, pure c'è, è perché io non sono iscritto a una piattaforma di CB continentali e si danno l'appuntamento, stasera sul canale 12 abbiamo copiato quello, abbiamo copiato quell'altro e si danno l'appuntamento, siamo sul 12 stasera, questo e quell'altro. C'è una piattaforma dove loro si scambiano idee, praticamente si vedono baracchini uno con l'altro, attrezzature CB eccetera eccetera, antenne, lineari, alimentatori, c'è molta gente che si ha ritrovato tutti gli apparecchi polverosi in cantina oppure nel garage e li rimette in vendita. Ma qualcuno l'ha tenuto e qualcuno se l'ha messo in vendita perché ne aveva troppi. Ha detto che non si ricordava manco di averlo. Figurati. Ma comunque così dai. Speriamo che non vada mai a finire quest'hobby, perché è bello come hobby. Però, sai, la gente molte volte stanca da lavoro per un motivo o per l'altro, non attendi, si vede tutto. Capito? Però, vabbè, va. Guarda che nel momento si potrebbe rifare una cosa del genere, tenendo un'autorizzazione, magari prendono una bella iniziativa e fa conoscere l'apparecchio, fa conoscere il baracchino, che cosa era, cosa non era. Si potrebbe rifare un'azione del genere. Ma se siamo rimasti quattro gatti al tuo, a chi ti rivolgi? Per fare queste cose bisogna chiedere l'autorizzazione. Lui, Antonio Grotte, lo voleva fare, e sapeva tutto come muoversi, come tutto. Ci voleva autorizzazione, tutto quanto. Io ero d'accordo, se lo voleva fare io ero d'accordo, però in tanti l'hanno contrariato, quindi non si è più fatto nulla. Sei che è buone, è inutile. Sei che è buone, quando c'è sempre l'antagonista che non è d'accordo, perché magari nella butta al buco, comunque vabbè, ne andava uscì. Però era un'ottima idea, lo so, era un'ottima idea. Sì, perché così in questo modo incuriosisci i ragazzi, capito? E adesso vedono l'antenna e si dicono la pulizia, il borghese, questo, non sanno manco che cosa stanno dicendo, capito? Non conoscono manco nulla, nella 27 proprio niente. I miei figli che sono giovani lo conoscono perché l'hanno sempre visto in casa, quindi lo sanno che cosa è, hanno visto come funziona e tutto, anche se non c'è interesse, però sanno cosa è, ma non tutti sono così. Perché adesso sono il cellulare ha rovinato tutto. Ma siamo condizionati un po' tutti, e io l'altro giorno non lo trovavo, mi stavo disperando, non trovavo il cellulare da nessuna parte. È bello che non c'aveva la solidità, c'era il silenzio, lo chiamavo col telefono di casa, non lo sentivo da nessuna parte, e poi cos'era? Mi era caduto in macchina al fianco del sedile, tra un sedile e l'altro. Oh, sono andato in macchina, ho cercato, se non c'è macchina in macchina, io l'ho perso il cellulare, boh, e invece era rosso di dell'altro. Ragazzi, mi dispiace, hanno suonato, devo andare. Ciao ragazzi, ci sentiamo magari domani. A che ora entrate? Che sono in casa, a che ora entrate di solito? Ma io sempre verso le 7 meno un quarto, le 7, così entro. Vabbè, perché io prima oggi c'ho la passata del canto e canto prima, poi entro qua. Vabbè, ci sentiamo oggi, buone cose, avanti a tu. Ciao G, ce la risentiamo, K. Come arrivo lì a Porto Torres, bene? Poi ha detto lo stesso consegnare di Gianni, sai, perché Gianni quando modula c'ha pochi picchi positivi, tu sei fermo a 7. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ma tu sei attaccato. No, negativo. Vabbè, dai, comunque, vorrei stare andando anch'io, tu, perché devo portare giù il cane, dai. Ci sentiamo, buona serata a tutti, anche agli ascoltori, e cercate di entrare. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Yeah. Yeah.